L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, 9 agosto 2012, giovedì, puntata numero 9 dell'Italia vista dallo spazio, il programma che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene, insomma, va in onda dagli studi di Roma di Radio 24 per cercare di parlare ogni giorno di un aspetto, di un diciamo una sfumatura, una sfaccettatura riguardo gli italiani, l'Italia e l'italianità, e per cercare ogni giorno qualcosa da salvare. Poi certi giorni è una ricerca più faticosa, giorni è solo una questione di scegliere, di mettersi d'accordo su che cosa potremmo salvare, però noi ci proviamo tutti i giorni, almeno fino al 31 agosto, giorno in cui lanceremo nello spazio la nostra navicella spaziale virtuale messa a disposizione dai potenti mezzi di Radio 24. L'argomento di oggi ve lo dico tra pochissimo, prima vi devo dire che cosa abbiamo salvato dopo la puntata di ieri. Posto numero 8. In attesa di assegnazione. E comincia a essere affollata questa navicella, anche se abbiamo parecchi posti liberi, perché dopo la Milanzana, la Parmigiana, la nostra bella Teglia, dopo Alex Zanardi, dopo la Divina Commedia, dopo un CD con il rumore del motore della vecchia 500, dopo il DVD di Amarcord, sto andando a memoria, dopo una parrucca che simboleggia la nostra confusione, me ne mancherà sempre uno come i sette nani, dopo la pizza, ieri abbiamo parlato della socialità italiana, abbiamo chiesto qual è l'appuntamento, il momento in cui gli italiani rendono meglio, insomma, o rendono in maniera più sincera rispetto al loro essere socievoli, e voi ci avete detto che secondo voi noi dovremmo salvare la cena in famiglia, quindi mettiamo questo come simbolo di queste cene in cui ci si vuole bene all'inizio e un po' meno bene alla fine, un bel centrotavola di quelli, diciamo, un po' kitsch che si mettono lì e poi vengono immancabilmente spostati perché bisogna metterci il pollo arrosto, il polpettone, le lasagne, tutte quelle altre cose leggere che noi di solito consumiamo. Mettiamo quindi il centrotavola nella nostra astronave e andiamo avanti. Posto numero 8, assegnato. Derek, avrei ancora qualche altra domanda da farti. Figoso! Quando hai scoperto di voler diventare un modello? Forse è stata la prima volta che ho ripetuto la seconda elementare. Mi sono visto riflesso nel cucchiaio mentre mangiavo i cereali e mi ricordo che ho pensato: wow, sei bello in modo assurdo. Forse potresti farlo come lavoro. Che cosa? Essere bello in modo assurdo. Certo. Qual è il tuo marchio di fabbrica, se ne hai uno? Beh, l'espressione che mi ha reso famoso è Blue Steel. Questo era Derek Zoolander, modello bello bello in modo assurdo, nell'omonimo film. Io non so se voi in questo momento siete da soli, se siete in ufficio, se siete in giro per strada o in casa, se siete in macchina, sui mezzi pubblici. Vi chiederei comunque, se potete, di guardarvi, di guardare voi stessi, come siete vestiti, di guardarvi allo specchio e di guardarvi intorno, se ci sono delle persone, e di prendervi un attimo per pensare che state guardando quello che è considerato il popolo più bello ed elegante del mondo. Pensateci un attimo, perché è così. Noi italiani abbiamo questa nomea in ogni angolo della terra di essere i maestri dello stile, dell'eleganza, del saper vivere, del saper abbinare la giacca, la cravatta, le scarpe e via dicendo. E niente, ci dobbiamo convivere. Noi abbiamo anche scherzato nei giorni scorsi sulla nostra mania per la cucina, i nostri difetti, la nostra, diciamo, socialità, però dobbiamo anche dire che se c'è un talento dobbiamo parlarne, dobbiamo mandarlo nello spazio. Quindi oggi vi chiedo innanzitutto: secondo voi siamo ancora, cioè ci possiamo fregiare di questo titolo di popolo elegante, pieno di stile, pieno di capacità di saper fare e indossare abiti eleganti? E B, che cosa potremmo mandare nello spazio come simbolo della moda e dell'eleganza italiana? Io dichiaro di non essere esattamente un grandissimo esperto in questo campo, però mi fido di voi e mi fido delle persone che abbiamo chiamato come ospiti, che invece si occupano di moda e di abbigliamento e ci sapranno ben consigliare. Comunque, aspetto i vostri suggerimenti su Facebook alla pagina L'Italia vista dallo spazio, su Twitter usando l'hashtag cancelletto dallo spazio e al telefono ovviamente 800 0024. Cosa salviamo, cosa lanciamo nello spazio della moda, dell'eleganza e dello stile italiano? E io a questo punto chiamo in causa la prima ospite, perché così mi faccio dare una mano. È un'esperta di moda e conduce un programma cult che si chiama Ma come ti vesti? È con noi Carla Gozzi, benvenuta. Grazie Chile, buongiorno a tutti, ciao. Allora, la prima cosa che io in realtà volevo chiederti, perché guardando il vostro programma, che insomma quello che condici con Enzo Miccio, vedo che insomma vi occupate anche di un bel po' di errori, è questa diciamo nomea degli italiani come popolo di esperti di moda e di persone dotate di gusto, è ancora valida? Ce lo possiamo ancora segnare tra i nostri diciamo vanti? Sì. Guarda, è ancora valida. Diciamo che nel corso degli anni abbiamo un po' perso un po' di smalto, nel senso che anche le donne, come dire, hanno dimenticato un po' le regole base. E poi evidentemente ci spieghiamo anche il successo di Ma come ti vesti, al di là che sia una trasmissione divertente e ironica, quindi piace un po' a tutti, però gli insegnamenti che noi effettivamente diamo vengono colti da moltissime ragazze, moltissime donne. Io faccio spesso serate, incontri con donne e ragazze, e tutte mi dicono che in effetti molti di questi suggerimenti loro li applicano e si sentono effettivamente meglio. Quindi c'è voglia di sentirsi più belle, l'abbiamo un po' dimenticato, ecco, quindi le italiane devono un po' tornare a riprendere l'ABC della moda, dello stile, questo sì. Sì, questo forse è il bello di Ma come ti vesti, che permette di pensare sempre che sia un altro quello che ha quei problemi. Però nel frattempo ti raccatti qualche consiglio utile. E a questo punto devo chiederti, perché questo è il format del nostro programma, dovendo salvare una cosa che noi consegniamo ai posteri e agli altri come simbolo e orgoglio della moda italiana, che cosa scegliamo? Beh, io direi, guarda, una cosa effettivamente ormai famosa negli anni e nei tempi, la bellezza italiana, cioè le donne italiane sono veramente bellissime. Io sono reduce da un piccolo tour al sud e devo dire, anche se io viaggio molto anche all'estero, devo dire che ci sono delle donne di una bellezza disarmante, cioè anche non truccate, proprio quei tratti meravigliosi, quindi salverei sicuramente la bellezza delle donne italiane. E un come oggetto? Come oggetto, beh, direi, guarda, un tessuto, che è un tessuto che è la seta, che noi lavoriamo molto bene, soprattutto in Nord Italia, quindi la seta stampata, e questa la conserverei sicuramente, perché è un qualcosa di unico, nonostante ovviamente la competizione che ci viene dall'Asia, effettivamente noi siamo sempre migliori come lavorazioni, come colori, come tessiture. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, noi di solito diciamo in trasmissione che per salvare qualcosa bisogna anche riconoscere le cose che possiamo abbandonare. Voi in trasmissione avete quei bellissimi cestoni dell'immondizia in cui buttate i capi inguardabili. Qual è la cosa che buttate più spesso o che butti con più piacere dall'armadio degli italiani? Beh, diciamo che le cose che buttiamo più spesso, in particolare io, sono le felpe, perché c'è un uso smodato anche fuori luogo dei capi sportivi, quindi le felpe di cotone, sai, quelle col cappuccio, anche soltanto quelle con lo scollo tondo a barchetta. E perché effettivamente non sono capi in generale da buttare, però è come vengono utilizzati malamente. Allora in questo caso, per evitare che le nostre amiche le reindossino, noi li buttiamo per assicurarci che non li potranno più trovare nel loro guardaroba. Così questo è un po' il segreto del nostro gettare i capi. Va bene, io a questo punto vado a casa a buttare un po' di felpe. No, ma mai avuto una felpa in vita mia, ci mancherebbe no, altro. Neghi l'evidenza. Io ti ringrazio Carla, grazie per essere stata con noi, per i tuoi consigli. Alla prossima. Grazie, buona giornata. Ma magari, insomma, è anche bene approfittare per confessare qualche piccolo peccatuccio, no? Insomma, per dire che magari qualche errorino lo facciamo anche noi, e per dire anche qualcosa che non ci piace. Facciamo così, quello che volete salvare della moda e quello che non volete salvare, ditelo tranquillamente. Togliamoci anche un po' di sassolini dalle scarpe, è il caso di dirlo, le scarpe con tacco, mi raccomando. 800 24 00 24, c'è Loriana da Pistoia, benvenuta. Buonasera. Loriana, allora intanto faccio anche a te la domanda di oggi, che siamo eleganti come italiani? Sì. Dicevo, non è un modo di dire, non è una nomea, ci difendiamo ancora bene? Sì. E che cosa salviamo? Il tubino, io parlo al femminile. No, va bene, le donne per le donne, gli uomini, o misti, siete liberi. Il tubino è una cosa tipica italiana? No, non sarà tipica italiana, ma insomma una donna, ecco. Io me li sono conservati, ho 66 anni, e su me li rinfilo e faccio modifiche e vedo se la linea non è più quella. Perché a me viene subito in mente Audrey Hepburn, cioè non so se è un limite mio, è quello sì, il tubino. Sì, è vero. Bravo. Va bene, allora invece una cosa che buttiamo? Oh, i fuseau, sì. che sono tornati di gran moda, solo che io non ho mai capito che differenza c'è tra i fuseau e i leggings. Se qualcuno lo sa, me lo dica. Ora, questa ultima parola io non la conosco. I fuseau sono strinti in fondo e sono antiestetici per le donne. E mi sa che i leggings sono uguali. Grazie Loriana da Pistoia, grazie per essere stata con noi. Aspettiamo altri ascoltatori all'800240024. Qui mi dicono che è stato inventato da Coco Chanel il tubino. Quante cose non so e quante cose non imparerò probabilmente. Ma un bel abito elegante lo faremo mai, Zoe? Attraversetelo? Se vogliamo fare l'altamodo dobbiamo andare in una grande città. E allora andiamo. Facciamo le valigie, partiamo. Dov'è che volete andare voi tre? Una cosa che notavo di noi italiani è che non ci raccontiamo nemmeno molto come, diciamo, esperti di moda, non raccontiamo le nostre storie. Ad esempio nel cinema americano ci sono un sacco di storie ambientate nel mondo della moda, pensate al Diavolo Veste Prada, a una serie di puntate di Sex and the City, e magari poi sono piene di marchi italiani che noi in realtà poi raccontiamo pochissimo. C'è un caso veramente più unico che raro, è questa fiction Atelier Fontana sulle sorelle Fontana, che poi sono diventate da sarte di provincia a note nel mondo del fashion, perdonatemi questa parola, e delle dive americane dell'epoca. Proviamo a vedere insomma cosa possiamo salvare della moda italiana con un'esperta, perché è una costumista ed è anche l'autrice di un libro che si chiama Chic Low Cost, manuale di eleganza con l'arte del riciclo. È con noi Sabrina Beretta, benvenuta. Buonasera, benvenuta, grazie, scusate, mi sono emozionatissima. Ma no, non ti preoccupare, questo è un programma. Sono una coautrice comunque, è perché vero, sono la costumista, però Sara Pupillo mi ha aiutato a mettere mano alle idee, quindi a farle diventare parole. Tu sei una costumista di cinema? No, teatrale, scusa. No, tutte e tre, diciamo, sia costumista di cinema che di teatro che televisiva. Ho fatto il percorso, diciamo, di tutti e tre gli step, cominciando dal teatro quando facevo l'università a Bologna. Una curiosità, è facile vestire le attrici e gli attori italiani? Cioè, ci capiscono già loro? No, non è facile perché sono sempre molto loro stesse, o loro stessi, si amano molto riportare quello che sono nella vita nel cinema, nella finzione, anche se non tutti ovviamente, però la maggior parte cerca di essere se stesso anche nella fiction. Perché pensano di essere molto eleganti. Perché pensano di essere molto fashion, molto eleganti, molto spesso però non bisogna essere fashion o eleganti, ma bisogna essere il personaggio, per cui magari è proprio il contrario, non deve essere né fashion né elegante, quindi è un'altra cosa ovviamente, il costume dà un'identità completamente diversa dal vestito che indossiamo tutti i giorni. Senti, dal titolo già, ma l'ho sfogliato, del libro Chic Low Cost, intuisco che si può essere eleganti anche senza spendere una fortuna. Qual è il segreto? Guardarsi. Fondamentalmente cominciare dallo specchio, quindi guardare le forme di come siamo noi, quindi spalle piccole, seno grosso, e da lì poi cominciare a modificare le nostre scelte dei vestiti magari sbagliati. Prima Carla diceva che molto spesso danno dei consigli nella loro trasmissione rispetto a quello che le donne non sanno più mettersi, e per questo, perché non sanno più guardarsi e quindi non sanno più essere eleganti. E cioè, qual è l'errore più ricorrente che tu vedi? Ma molto spesso l'errore ricorrente è quello di non usare le proporzioni. Noi ovviamente siamo sempre, ognuno di noi è diverso, gambe lunghe, corpo piccolo, il contrario, e ovviamente le proporzioni sono fondamentali, perché è fondamentale vedere che cosa dà l'altezza, come slancia, come attozzisce, e quello non c'è un capo in particolare, però ovviamente a una ragazza con le gambe corte è chiaro che una gonna lunga e la scarpa bassa non non può stare bene, la intozzisce ancora di più. Quindi mi sembra di capire che insomma ci sono delle cose che sono belle, ma non per tutte. E, Sabrina, io ti chiedo che cosa vuoi salvare, ma te lo facciamo dire tra poco, perché penso ci sia la viabilità, ma a pochissimi secondi siamo di nuovo insieme. Beh, perfetti, no? Mi pare non antichi a Gorti. Ma no, quest'anno vanno. E dove vanno? Vanno di moda così, si fidi di chi se ne intende. Scusi, lei come le taglia le fettine? Tutti l'anno uguali. Ecco, invece il taglio dei vestiti cambia. Noi siamo artisti, modestamente. Non siamo macellai, noi. E questo è un altro, diciamo, mio auto da fè, auto accusa, perché a volte mi sento un po' come Bombolo in questo storico film Sfrattato cerca casa equo canone, e ho bisogno sempre di qualcuno che mi consigli. Sabrina Beretta, costumista e coautrice di Ciclo Cost, è il momento di dirci che cosa salveresti, cosa manderesti nello spazio come simbolo dello stile dell'eleganza italiana. L'artigianato, i grandi artigiani italiani, i sarti artigiani, coloro che fanno pizzi e ricami, e poi se vuoi un oggetto, il sandalo caprese, che è il simbolo in assoluto della, diciamo, estivo dell'eleganza italiana. L'hanno reso famoso Jackie Kennedy, eccetera, eccetera, ma noi ce l'avevamo da tanto tempo. Va bene, io ti ringrazio, ricordo il tuo libro Ciclo Cost, manuale di eleganza con l'arte del riciclo, di Sabrina Beretta e di Sara Pupillo, che salutiamo, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, a presto. 800240024, cosa salviamo, ma anche cosa buttiamo dello stile dell'eleganza italiana? Sandro da Brescia, benvenuto. Sì. Un uomo. Pronto, eccoci. Sì. Una volta Marisa Laurito in un programma che ho rimosso, per fortuna, forse era Domenica In, quando telefona un uomo diceva un uomo. Guarda, perché io ho parti del mio cervello che ricordano queste cose? Sandro, che cosa vorresti salvare dello stile italiano? Beh, intanto io voglio dire che non sono né un esperto né una persona forse che può vantarsi di essere vestito bene. Però, pensandoci, insomma, le scarpe italiane sono qualcosa di unico al mondo. E vengono qua, io abito vicino alla riviera del Brenta, abito a Padova, quindi qui è una zona tipica, insomma, dove costruiscono, fabbricano scarpe delle più belle che siano in giro. Ovviamente per l'uomo forse è meno eclatante, ma però, da donna. Se da pensiamo donna. Solo alle polemiche riguardo a certi politici, alle scarpe che si compravano, anche le scarpe da uomo sono diciamo un qualcosa di importante. Grazie Sandro, c'è qualcosa nella zona, credo, perché arriva da Brescia anche Angela, benvenuta. Sì, buongiorno, io non arrivo da Brescia, arrivo da Vicenza. Ah, da Vicenza, va bene, ecco. Va bene, mi hanno scritto male, ma non è una... Comunque arrivo, sono sposata a Vicenza da una vita, però sono milanese di nascita. Che cosa salviamo, Angela? Io salverei la linea di Valentino. Che cos'ha di particolare? Ha di particolare Valentino, che sa estrapolare da una donna, perché noi donne non tutte siamo belle. Chi ha la coscia grossa, chi ha manco di seno, chi è piccina. Valentino riesce a estrapolare una bella donna, anche se non è bella. Farla sentire bella. Lui sa creare sulla donna ad ognuno il suo modello. Va bene, questo già è una cosa. Comincio ad avere un piccolo quadro. È importante che le cose stiano bene alle persone, e forse questa è una nostra abilità, anche ricordarsi e considerare che non tutti le donne sono alte, snelle, e non tutti gli uomini sono con le spalle larghe. Grazie Angela, 800240024. Valentino è uno stilista italiano conosciuto in tutto il mondo. To me the dream of my life is to create clothes for ladies. E questo era uno spezzone di Valentino, l'ultimo imperatore, visto che lo citava la nostra ascoltatrice, un documentario del 2008 fatto in America, dove appunto noi raccontiamo poco la moda che facciamo e magari ce la devono raccontare gli americani. Anche questo succede. Per bilanciare un po' tra grandi stilisti, cito un commento da Facebook di Natale che salverebbe la giacca destrutturata di Armani. Io non so nemmeno cos'è una giacca destrutturata, e un po' mi spaventa. presenta, ma magari me lo sa spiegare il nostro prossimo ospite, che è un esperto di moda e un appassionato anche, il caporedattore di Marie Claire, Antonio Mancinelli, benvenuto. Buonasera, benvenuti a voi. Antonio, vuole sapere cos'è una giacca destrutturata? Se è una cosa che si può spiegare in breve, se no... Sì, non è neanche una cosa porno, è, come dire, la grande invenzione grazie a cui la moda italiana si è fermata nel mondo nei primi anni Ottanta. Forse l'avrà visto un film che si chiamava American Gigolo. Sì, sul cinema sono un po' più ferrato. Il protagonista indossava per la prima volta nella storia della moda non italiana ma internazionale un blazer che non aveva nessun tipo di fodera interna, non aveva nessun sostegno, non aveva nessuna spallina, era praticamente un cardigan, però avendo le fattezze e il tessuto di una giacca. Ed è stata la grande invenzione che poi ha veramente rivoluzionato il linguaggio di moda da parte di Giorgio Armani, che è un grandissimo genio. Tutto qui. A questo punto la domanda, diciamo, di oggi, anche se devo dire mi sembrate tutti d'accordo, siamo ancora un popolo elegante che sa vestire? Ma io direi che alla fin fine sì, e la cosa che più mi fa piacere, facendo il giornalista da oltre 26 anni, che ci sia un gusto diffuso, un buon gusto diffuso, soprattutto nei piccoli centri, no? Penso alla provincia, penso a certe tradizioni che sono rimaste della domenica mattina, dello struscio il sabato pomeriggio. Io credo che in generale ci sia trasversalmente, sia, come dire, a livello di classe sociale, ma sia anche a livello anagrafico, un certo buon gusto diffuso, per cui ad esempio, non so, il mio papà che ha 86 anni non esce di casa se non mette due gocce di profumo nel fazzoletto del suo taschino, ed è un signore assolutamente, come dire, al di sopra di ogni sospetto di essere un fashionista. Quindi io tutto sommato penso che rispetto a tutta un'alluvione mediatica di cattivo gusto, soprattutto negli ultimi 20 anni, in realtà poi resistono delle sacche di buon gusto che è un po' parte della nostra eredità. E che cosa potrebbe simboleggiarci dovendo scegliere un oggetto? Ma io ho scelto per voi, giustamente non volevo un oggetto che fosse in qualche modo legato a uno stilista, ma fosse proprio legato all'italianità. E allora mi è venuto in mente che fosse l'oggetto che possa più simboleggiare l'italianità e nello stesso tempo quello che noi chiamiamo in gergo il design spontaneo, no? Nel senso che non si sa chi l'abbia inventata, sia la vestaglietta. La vestaglietta che tutto sommato ci riporta a lei, che mi sembra sia anche un cultore di pop culture, a tutto un immaginario che da un lato è molto erotico, no? Malizia di Salvatore Samperi con Laura Antonelli, Sofia Loren e la Sciociara, ma anche poi invece a tutta un'italianità materna, per cui la vestaglietta era l'abito con cui, non so, la nonna faceva marmellate, è molto mediterraneo, è assolutamente, come dire, un tipo di abbigliamento di cui non si sa bene l'origine, ma che non è né rigida come il camice, né tantomeno, come dire, troppo esibita come può essere un abito sexy, tant'è vero che poi nel corso degli anni è stata ampiamente copiata, e quello che adesso gli americani chiamano wrap dress, glielo dico io prima che lei lo trovi su Google, è un abito a portafoglio sostanzialmente, è nei fatti una vestaglietta. A me non sarebbe mai venuto in mente la vestaglietta, però adesso visto che parliamo di... C'è pop... anche questo, sì, nella vita. No. Parlando di pop culture, è che io la abbino immediatamente alla giacca da camera che sempre nei film di quell'epoca indossavano i Mastroianni o i Giuffrè, quando insomma li vedevamo nei loro interni da uomini borghesi d'altri tempi. Quella non so se va ancora. No, erotici da bambino, da Silvana Mangano a Sofia Loren a Laura Antonelli, non ha mai signora, una signorina in vestaglietta. Sì, questo esperimento di autoanalisi alla radio, sì, diciamolo tranquillamente. E, Antonio Mancinelli, possiamo sentire insieme un ascoltatore, così magari mi sostiene. Ferdinando da Milano, pronto? Sì, pronto. Che cosa salviamo della moda italiana, dello stile italiano? Le cravatte dei primi anni 70, quelle che non erano tanto grandi, tanto grosse, neanche tanto sottili, erano una via di mezzo, erano molto belle, quindi si poteva fare il nodo come meglio si voleva. Non ci sono più le cravatte di una volta? No, ma io ho ancora quelle, uso ancora quelle, non le compro quelle attuali perché non mi piacciono. E per le donne invece i reggi caldi. I reggi calze, beh, è qui, insomma, torniamo all'immaginario erotico. Grazie Ferdinando. Antonio Mancinelli, approviamo? Sì, approviamo, perché sostanzialmente poi il vostro ascoltatore sottolineava un aspetto fondamentale, una dama italiana che per fortuna ancora regge, che è la qualità, che poi è la cosa che ovviamente salveremmo. Cioè, la dama italiana è ancora oggi riconosciuta come quella che ha un maggior quantitativo, un maggior quoziente di qualità intrinseca, quindi parlo di qualità dei tessuti, qualità di confezioni, si è parlato prima di artigianato, si è parlato prima di saper fare vestiti, che è una dote che soltanto noi italiani sappiamo, abbiamo, addirittura me lo lasci dire più dei francesi. Riguardo le cravatte, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, e riguardo ai reggi calze, come vede, poi la moda ruota sempre intorno all'attrazione, c'è sempre un discorso di attrazione, forse c'è solo di seduzione, che vale in tutti e due sensi, vale non soltanto dalle donne nei confronti degli uomini, ma direi anche il contrario. E ad esempio l'ultima sfilata di moda maschile lo hanno dimostrato con un'immagine maschile sicuramente molto forte, ma un po' militare, quindi con tutto invece quell'altro tipo di fascino che a donne piace molto, quello della divisa, per cui sicuramente poi l'erotismo, in cui una volta anche noi italiani eravamo famosi, adesso forse un po' meno perché la crisi purtroppo... Vabbè, ma secondo me nei momenti di crisi, secondo me ci si riprende su queste cose. Io ringrazio Ettore Mancinelli per il supporto e ringrazio tutti voi per aver chiamato e per averci scritto. Noi torniamo domani, devo ringraziare anche Alessandro Chiappini per la parte tecnica, Antonella Migliaccio per la redazione. Da Achille Corea, grazie a tutti. Italia Vista dallo Spazio torna domani pomeriggio. Posto numero 9. In attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a Italia Vista dallo Spazio @radio24.it.